Ok, va bene. Quindi se Davide e Clelia ci stanno ascoltando possono mandarci un messaggino al 333 180 94 94 e dirci come stanno festeggiando la loro luna di miele. Forse no, perché forse anche cazzi loro. Esatto. Sicuramente non ci stanno ascoltando, sicuramente non ci stanno ascoltando dalla radio analogica, perché non sono attorno a Bologna, ma comunque appunto sono affari loro. Ah, eccolo qua, suona il nostro cantante, e così tu mi lasci da sola a dire qualcosa. Siamo su Coxo Spaziale Radio Città Fujiko, tutti sintonizzati. Probabilmente salutiamo anche Radio Peng in Virginia. Esatto. Avremo anticipo che avremo dei contenuti speciali e una piccola puntata un po' emotiva, per la quale ho già avvisato Stefano di tirare sul morale. Sì, no, se partono i fazzoletti e le lacrime. Esatto, sarà una puntata disastrosa, lo so già. Ma sta arrivando il nostro ospite, che è niente po' di meno che Giacomo Giunchedi, detto Sacro Bosco. Eccolo. Ed eccolo. Fai l'ingresso qua. In Facciamo diretta. L'ingresso Fai in diretta. L'ingresso vieni, in diretta. Vieni pure. Saluta. Sei già in diretta, benvenuto. Ascoltando. Mettiti le cuffie. Ciao, ecco, Giacomo. Ciao. Ce l'ho fatta. Ce l'hai fatta. Come stai? Bene. Stavo per mettere su un tuo pezzo, ovvero ovvero Faint. Cosa Perfetto. Dici? Bene, perché infatti c'è scritto first single, allora andiamo dopo magari sopra ci racconterai tutto di te. Intanto benvenuto a Coxo Spaziale. Grazie. E questo è Faint di Sacro Bosco. Facciamo così, che intanto che ascoltiamo Faint, perché non è finita, dura 7:06. Esatto. E è solo un attimo. Esatto. Tu facciamo un po' come i DJ anni 80, che ogni tanto alzano. Nei momenti di silenzio interloquiale oppure di imbarazzo, alziamo Faint. Ci fingiamo dei DJ anni 80. Tu intanto, allora, Mia, chiedi tutto sì. a Giacomo. cioè ti si chiama Sacro Bosco, ti si chiama Giacomo, come Sacro Bosco, come musicista, come artista, però mi posso rivolgere con te tipo ciao Sacro Bosco o ciao Giacomo? Giacomo direi. Ok, perfetto, Giacomo, direi. Benissimo. Raccontami come nasce il nome Sacro Bosco. Allora, nasce in una maniera molto spontanea. Ero in vacanza in Sicilia e mi ospitavo una mia amica, ed era pomeriggio, e in momento di relax ho sfilato dalla sua libreria una versione della Divina Commedia di tanti anni fa, perché era molto vecchia, e stavo leggendo così. Io praticamente amo leggere i commenti della Divina Commedia sotto. Certo. Cioè proprio mi diverte tantissimo, mi appassiona un sacco. I commenti editati, non quelli scritti dagli studenti, cioè, in biblioteca. Esatto, le spiegazioni editate del, in genere, insomma, dell'autore che cura il testo. E si parlava di questo Sacro Bosco, che era un matematico che Dante ha utilizzato per scandire il tempo nel, certo, suo viaggio nell'inferno. Okay. L'Instagram è Sacro Bosco Music, vero? Esattamente. Fantastico. E quindi si è accesa una lampadina. E ti ha chiamato, questo nome ti ha, sì, chiamato? Sì, in quel momento in realtà avevo un altro progetto musicale in ballo, quindi non è che avevo pensato fondo un progetto, però quando mesi dopo l'ho fatto mi è tornato subito in mente quel momento e quel nome. E è anche stato... Sì, anche poi, cioè ho... Come dire, mi è sembrato così chiaro e lampante che il mio rapporto con la musica è un viaggio nel tempo. Cioè per me la musica è sospensione del tempo e attraversare il tempo. E quindi è tempo, perché poi alla fine i BPM sono una scansione di secondi all'interno, certo, dei brani. E quindi così mi è sembrato estremamente naturale e logico usarlo. Da dove vieni? Io vengo dall'Abruzzo, da una città che si chiama Avezzano. E quindi salutiamo tutti gli amici di Avezzano. Tra cui Esther Grossi, che conosciamo entrambi. Esatto, la mitica Esther, bravissima. E, no, devo dire che ci sono degli avezzanesi trapiantati a Bologna, che è evidente quanto abbiano scelto di andarsene da Avezzano, okay, per cercare qualcos'altro, nel senso. Approdato qua per gli studi o? Sì, assolutamente. Per gli studi come scusa, poi in realtà li ho C'era fatti, una storia d'amore. Li ho amati. C'era una voglia di andare via da un posto piccolo in cui non mi sentivo, come dire, abbastanza partecipe di quello che succedeva intorno a me. Certo. Parlo di una Bologna di un paio di anni fa, perché si parlava del 2004. Quindi diciamo che... L'altro giorno. Sì, l'altro ieri. Per molte cose in realtà lo è, nel senso che le persone che raggiungono questo posto si muovono per gli stessi motivi, ma forse anche da tantissimo tempo. Il mondo è un po' cambiato nel frattempo, però, come dire, mi sono goduto il viaggio nel corso di questi anni comunque, certo, lo faccio tuttora. Certo, hai in programma qualche prossimo evento pubblico, qualche concerto? Allora... Qualche... Il prossimo è un DJ set Plug Radio nella versione estiva, si chiama Plug On Air. Plug Radio è una radio che è nata, credo proprio quest'anno, fondata da alcune persone che amano la musica e hanno creato uno spazio in via Cartoleria, ristrutturando una cantina e trasformandola in un posto in cui si mette musica, si, certo, ascolta musica. E quest'estate hanno uno spazio, tra altre cose, non lontano da qui, dove fanno eventi sia live che DJ set. Quindi non per fare pubblicità, però sarà tra... Il 2 agosto. Il 2 agosto. Sarà il 2 agosto in un posto non lontano da Radio Città Fujiko. Esatto. E va bene, dai, allora magari lo venite di nuovo a raccontare in prossimità, esatto, dopo la data. Ah sì, noi continuiamo, no, imperterriti tutto agosto, esatto, a fare coxo spaziale anche, sì, anche con 36 gradi. Ok, ovvio, e anche se con, lo dici tu, e anche con i ventilatori spenti. Sì, no, infatti, fra l'altro, infatti, se vogliamo accenderlo, se vuoi poi accendere lo quello, esatto, lo puoi fare. Io nel frattempo ho messo su Anytime, non so se hai notato, sì, che no, è cambiato il sottofondo. Questa però dura solo 1:59, esatto, per cui da un estremo all'altro, esatto. E questo disco è uscito poco tempo fa. È uscito a maggio. però è metà di un disco gemello, esattamente, giusto? Esattamente, sì. Il prossimo esce a ottobre. Perché io sono abbastanza bravo nel non leggere i comunicati stampa, però stavolta questa cosa mi è rimasta, non so perché. Sei stato ricattato dalla faccia di Giacomo, era ebbene ti è rimasta, per fortuna. Esatto. No, devo ringraziare Anna Laura Cazzola di Scintillarte che mi ha spedito Giacomo all'ultimo, perché così eravamo soli io e te, Mia, oggi, ma invece è arrivato in surprise Sacro Bosco. Con l'ingresso in diretta. Stai alzando tutti il volume? Tutti i volumi. Ascoltiamocelo. Questi 4 secondi rimasti. Finisce così. Allora ti faccio una domanda, Giacomo. Dai, cos'è la cosa che ti ispira di più? O può essere tipo un ambiente, una persona, un'idea? Cos'è la tua fonte di ispirazione? Non ti dico in generale, perché dovrebbe essere una domanda troppo complessa, però per quest'ultima canzone che abbiamo sentito, per esempio, quest'ultimo pezzo. Allora, quest'ultimo pezzo è nato proprio da una melodia che mi si è piantata in testa e che, come spesso faccio da un anno a questa parte, in cui ho instaurato un rapporto abbastanza profondo con Ableton, apro il computer e scrivo, diciamo, su Ableton l'idea. E quindi chi non conoscesse Ableton? Ah, Ableton è un famosissimo software molto utilizzato ormai, diciamo, in tutti i generi musicali, direi, però nasce, diciamo, come uno strumento molto accessibile per creare musica elettronica. Okay. Che ha il vantaggio di essere molto leggero, quindi facile da utilizzare durante i live, cosa che io non faccio comunque. Oh, dai. Però lo uso, diciamo, come proprio tavolozza su cui scrivere, disegnare delle idee molto grezze. Le sistemo, come ho fatto appunto con Anytime, e poi a un certo punto le trasporto su un altro software su cui sono molto più, diciamo, abile, che è Pro Tools, e lì mi diverto a creare proprio la traccia. Certo. E quindi questa traccia in realtà è nata in maniera molto impulsiva, molto rapida, anche se poi ho avuto diversi momenti, diciamo, di ripensamento su alcuni dettagli, però il grosso era nato in maniera molto istantanea. E se cosa mi ha fatto pensare a questo pezzo, sinceramente non saprei dirlo, sicuramente una voglia di, non so, rompere una superficie. Certo. Qualcosa del genere. Ok. Quanto è difficile fare il musicista elettronico in solitaria nel 2023? Allora, per me non lo è in realtà, perché sono arrivato a fare questa cosa appunto dopo periodi di collaborazioni, gruppi, mediazioni varie. Diciamo, è stata proprio una voglia di così correre alla mia velocità da solo. Ok. In cui cantavi anche, giusto? Precedentemente? Sì, in un altro progetto, diciamo, dove la musica elettronica era il contorno, ma non la cosa più importante. Invece a un certo punto lo è diventato, e quindi ho scelto proprio coscientemente di concentrarmi su questa ricerca, diciamo, che è diventata proprio una ricerca di suono e di ritmica. E poi comunque nei live di questo, che in questo periodo ho imbastito, si è aggiunta comunque la presenza di Paolo Raineri, quindi comunque alla tromba. Lui è un grande musicista, parte di Ottone Pesante, un bellissimo progetto musicale, quindi diciamo si è anche ricostituita poi un'idea di, se non proprio di band, ma fondamentalmente anche di gruppo. Sì, di gruppo, di collaborazione, di dialogo, che mi piace molto, perché si è, come dire, da questa ricerca di solitudine poi sono naturalmente ritornato ad una voglia di avere qualcuno con cui costruire qualcosa, ed è stato estremamente facile tornarci, quindi. Certo. Non mi ricordo più qual era la domanda. Com'è difficile oggi fare. Ok. Non lo è in realtà, perché poi, come vedi, è tutto molto flessibile, molto fluido. Mm-hmm. Infatti hai una fascia molto rilassata, direi. Sì, è vero, devo dire. Ah, grazie. Che... Forse perché non è la tua prima volta a Coxo Spaziale. A Coxo sì. Certo. In Radio, sì. Città Fucina. È la terza volta in Radio Città Fucina. Ci siamo visti per la prima volta in questo momento. Ok. però in Radio Città Fujiko sei venuto nel 2019 e nel 2014 mi sembra. Ok. Caspita, ok. Anche. In che trasmissioni te lo ricordi? Allora, domanda difficile, sì. Dai, una domanda trabocchetto. Non riuscirei a ricordare. Va bene, di che lo cosa stesso, hai parlato, no? In quella trasmissione? Di due progetti in cui. No, era uno scherzo, pensavo che non te lo ricordassi, però parlane. No, era no, per quello... mettere ancora un po' di difficoltà, ancora di più. Nel 2019 era appena uscito un album per un progetto che avevo che si chiamava Kadori. E diciamo che la volta prima facevo parte di un trio, eravamo ci chiamavamo Torakiki, facevamo una musica elettronica suonata, cioè c'è una parte diciamo prettamente composta e un'altra suonata proprio dal vivo, io suonavo il basso e il synth, quindi non avevo nulla di proprio di preparato, neanche di digitale, direi, nel senso che era tutto molto certo, live. Certo, bellissimo. Stiamo ascoltando adesso un pezzo? Stiamo ascoltando Cauto. Essere cauti con cauto, perché poi succede così. L'angolo della menzione, che viene interrotto bruscamente per fare una cosa che non facciamo mai, ovvero le menzioni prima della pubblicità. Wow, una puntata speciale. Una oggi. Puntata abbastanza speciale. Mi tocca di rimettere Vanessa May come sottofondo, però. Per parlare di martedì 18 luglio, sì, alle ore 19:30, ci sarà il laboratorio fotografico Ruota Libera Tutti. È un progetto innovativo di inclusione sociale e promozione del benessere attraverso l'utilizzo della bicicletta. Al Dumbo Space si racconta e si dialoga sui viaggi in bicicletta attraverso un breve laboratorio fotografico con Massiel Lisa, artista multidisciplinare. Lesa. Artista. O Lessa, perché sì, oddio. Artista che salutiamo, fra l'altro, certo, stato ospite qua. Artista multidisciplinare, fotografa e ciclista, e Fabrizio Mattioli, fondatore di Ruota Libera Tutti. Sarà l'occasione per condividere alcune pillole su come trasformare le emozioni in bicicletta in un vero e proprio ciclo racconto. Poi birrette e giro serale in bicicletta tutti insieme. Il progetto ha una pagina Instagram dove potete trovare tutte le esperienze passate, i futuri appuntamenti e il link alla raccolta fondi per permettere al progetto di diventare una vera e propria associazione. Instagram @ruotaliberatutti. Poi mercoledì 19 luglio alle 19 abbiamo No Wi-Fi con Hugo De Fatuo, Post South Institute e Ragazza Clan, una mostra che apre a Hidden Garage, che è in via Morgagni 7 a Bologna, e anche lì l'Instagram è Hidden Garage. Giovedì 20 luglio invece alle 20:30 alle Serra dei Giardini Margherita, conversazione con Lorenzo Mattotti ed Enrico Fornaroli. Ore 21:30 proiezione del film La famosa invasione degli orsi in Sicilia, che è il capolavoro in animazione diretto da Lorenzo Mattotti e basato sull'omonimo romanzo di Dino Buzzati. Dopo una lavorazione durata oltre 6 anni, l'opera è stata presentata al Festival di Cannes nel 2019. L'ingresso è libero e potete trovare le informazioni su leserredegiardini.it. Venerdì 21 luglio alle 20:30 si esibirà il cantautore Battista, che abbiamo avuto qua la settimana scorsa, accompagnato dal chitarrista Lorenzo Duranti, per il secondo appuntamento della rassegna Jam Session Live 2023. Questo è al piccolo auditorium Tamburini in via del Perugino 6. Info e prenotazioni 320-2244-932. Olè. Ed è in via del Perugino 6, al piccolo auditorium Tamburini. Finito lì, perché poi la gente va in vacanza, per cui non è che succede chissà cosa. Tranne il 2 agosto, è il 2 agosto, poi lo rimenzioneremo la settimana prima, che poi è la settimana prossima in realtà, siamo già alla fine di luglio, è incredibile. Sì, è come vero. Passa il tempo. È vero. Agosto volerà. Cosa facciamo? Mettiamo un altro pezzo, vogliamo spoilerare il tuo pezzo dal disco nuovo? Che ne dici? O è troppo presto? Ma perché no, dai? Perché no? Lui si chiama Peculiar. Esatto. Ok, ascoltiamocelo. Sacro Bosco. Siamo ritornati alla 400. Fabio Di Camillo e anch'io ascolto Coxo Spaziale. Ecco, ti ha interrotto Fabio Di Camillo come al solito. No, speravo di coprire un buco. Esatto, e invece no. E quindi siamo ritornati alla 460, credo, sì, 56. Con anche, senti che musichetta dietro. Molto carina. L'hai messa tu? È sempre Vanessa May. Non so perché oggi mi sono preso dalla busta coxica, ho tirato fuori questa musica di sottofondo. Magari la cambio intanto che fate due chiacchiere. Ci sta. In ogni caso siamo qui con Sacro Bosco, a.k.a. Giacomo. E, a Coxo Spaziale potete scriverci al 333 180 94 94 per intervenire o mandare degli audio o dei saluti o semplicemente delle canzoni che avete voglia di ascoltare. E Sacro Bosco ci sta parlando del suo diciamo nuovo album, che nuovo disco, scusa, disco, album, come Ah, come vuoi. Ok, perfetto. Sono un po' profana della terminologia tecnica, quindi magari faccio degli errori, tu punisci e correggi. Sì, no, anche perché magari Giacomo non lo sa, ma noi qua facciamo una trasmissione sull'arte contemporanea, noi di musica non capiamo assolutamente niente. E infatti metto Vanessa May come sottofondo. E infatti volevo chiederti se tu avevi mai fatto questo live in una galleria d'arte. Mi sembra di no, ed è una cosa che ho sempre pensato, mi ha sempre attratto tantissimo. Perché fuori onda ci raccontavi che facevi anche i visual. Sì, sì, esatto, amo lavorare anche alla parte visuale dei pezzi, come anche grafica. Certo. Quindi diciamo un progetto a tutto tondo. Sì, sì. In un qualche modo. Esattamente, esattamente. Il tuo posto ideale dove vorresti o desidereresti vedere, diciamo, il tuo prossimo live, il tuo prossimo in senso poetico, quindi non questo del 2 agosto, ma il tuo prossimo in futuro. Allora, io amo tantissimo i posti dove c'è un'atmosfera intensa da un punto di vista di luci e di... Uno stadio. No. Un aeroporto. Esatto. E anche raccolta, cioè nel senso che amo suonare per poche persone in un momento di raccoglimento attorno alla musica, cioè proprio una cosa che ho sempre amato tanto, e lo amo anche vivere da ascoltatore tanto. Certo. come situazione. E quindi in realtà proprio l'idea, cioè, di suonare in una galleria mi piace tantissimo. Cioè proprio per me il momento della performance è un momento di evasione, sì, alienazione dall'ordinario, quindi più c'è questa cosa e più mi piace. Ho visto, ma non ho per niente approfondito, una galleria, forse tu Stefano la conosci o forse addirittura tu Giacomo, che si chiama Arte, cioè che fa un progetto che si chiama Arte da non guardare, ma non mi ricordo il nome della galleria. E quindi mi chiedevo se progetti musicali fossero benvenuti, insomma. So che ho detto tutto niente con questo, però mi è venuto in mente. Effetti, sì. Niente. Però li voglio invitare a Coxo. Bene, perfetto. Senti, ma quando ascolteremo consiglia Lee Charlie? Allora, io devo dire una cosa. Devi dire una cosa. È una puntata un po'. No, devo dire una cosa al povero Giacomo, che poi. Che non sa nulla. Che poi non sa nulla. Io sono la persona meno. Cioè, io sono una persona che dalla mia faccia traspare tutto. Quindi, quando sei entrato, oggi sono un po' emotiva. E il primo giorno che torno in radio, dopo la mancanza di un mio vecchio maestro, che si chiama Alberto Garutti, che aveva promesso di venire in radio qui. E niente, allora ho chiesto a Alberto Garutti, un artista incredibile, una persona incredibile sulla quale non so dire niente in questo momento. Mm-hmm. Però ho chiesto a qualcun altro di dire se aveva voglia di condividere qualche parola, qualche voce, qualche canzone. E quindi quella che stai suggerendo tu è la canzone che Alberto aveva mandato a Davide Bertocchi, che salutiamo per un progetto di Davide, di cui linkeremo poi, che si chiama Top 100, a cui tu hai partecipato per il volume 9, Stefano. Ah, ok, grazie. E quindi questa è la canzone che il progetto consiste nel chiedere ad artisti qual è la loro canzone preferita. Esatto. Giusto, o qualcosa del genere. E quindi qualche anno fa Davide chiese questo ad Alberto e Alberto rispose così. Ecco. Più lontana ma stai, più vicina da sempre. Chissà questo momento, quanta pienza da fare. Tu mi misi in da pena che doce, non mi avesse sta croce, la trascina a te. Da vega, da vega, da senza, da sonna, e non ne già pensa, È romanticissima sta canzone, eh? Sei già lì che piangi, un disastro. Dopodiché ascoltiamo Adriana Torregrossa che ci racconta di come ci racconta, non lo so cosa ci racconta perché io non l'ho sentito, per cui adesso lo metto. Ciao Adriana. Mi chiamo Adriana Torregrossa. Con la voce spezzata, madonna, che casino. Ho frequentato il corso di Garutti all'Accademia di Belle Arti di Bologna. Nel 1990 ho iniziato e sono stata nel suo corso per 4 anni. È stato un dolore immenso la sua perdita, ma sono sicura che non è una perdita, perché la ricchezza che ha dato a ognuno di noi, a ognuno dei suoi studenti, l'amore, la pazienza, la voglia di conoscere, il desiderio, la passione, queste sono cose che non si cancelleranno mai e che ognuno di noi, penso, porta con sé, con quella voglia e quel desiderio di trasmetterle ad altre, con quella voglia e quell'intenzione di credere nella propria poetica e in tutto quello che operativamente facciamo, costruiamo attraverso il nostro lavoro, attraverso la nostra professione. Ricordo l'amore, l'affetto, tutto quello che mi ha insegnato, il pensiero, il suo modo di fare, i suoi calzini blu, il suo loden, il suo sorriso, il suo modo di, il suo approccio, il suo modo di parlare con noi, di condividere con tutto il suo corso, con tutta la sua calza, a volte durissimo, questo lo sanno le persone che lo conoscono, che lo hanno conosciuto, ma quella durezza ricca di amore, di affetto per chi la sa cogliere e per chi ha saputo vedere in questo suo modo, a volte burbero, no? A volte un po' duro, rigoroso, la fermezza e la voglia di credere in questo nostro percorso che ci ha condotto fin qui. Io penso che in ognuno di noi, in me sicuramente, ma penso in tutti coloro che sono stati vicino a lui e soprattutto i suoi allievi, questo segno è indelebile e continua, ed è una ricchezza che continua ad evolversi giorno dopo giorno, e finché avremo forza, voglia, desiderio, faremo così anche con i nostri allievi, in un discorso che continuerà, ecco, e che avrà sicuramente una sua evoluzione. Grazie Alberto. Capito Adriana. E poi la sua ci ha dato una canzone da dedicare a lui, no? Sì, e che io dedico anche a lei, anche se lei non me l'ha detto, io dedico anche a lei. Ok. Giacomo, tu cosa dici di Madonna? Qual è il tuo take su Madonna? Per tornare un attimo leggeri, perché sennò qua ci mettiamo a piangere tutti ed è un disastro. Ma in realtà io ho anche fatto un pezzo campionando un pezzo di Madonna. Grande. Quindi ci sta. Sì. E io ho anche un'altra persona. Tante altre persone. Facciamo. Dimmi tu. Facciamo Roberto. Roberto Cuoghi, artista molto famoso che ha partecipato a una delle ultime, aveva nel padiglione Italia, aveva un padiglione intero alla Biennale di Venezia, e anche lui è stato allievo di Garutti. Sentiamolo. Alberto è un riferimento di lealtà per me. Allora, prima di uscire dall'aula, a volte si voltava verso uno di noi e diceva chiamami, che voleva dire mi sei piaciuto, voglio sapere tu, passiamo la notte al telefono. Io sorridevo, mi sembrava sconveniente, ma l'ennesimo chiamami lo chiamai. Quanti anni hai? E io 22. Non sei più un ragazzo. Cosa fai tutto il giorno? Che secondo me te cosa sei? Uno di quelli che prende delle pastiglie, eh? Io gli dissi quasi tutto. Un flusso di coscienza, cioè genitori, fidanzati, come farebbero, no? Forse anche una lavanda gastrica. Beh, concluse lui con: tu abbi fiducia, credimi che sarà sempre peggio. Ecco la carezza più efficace che abbia mai ricevuto, perché funziona ancora, capito? Hai capito? Sempre peggio. È il pezzo dedicato ad Alberto. Infatti, These Foolish Things di Ella Fitzgerald. Oh, will you never set me free? The ties that bound us are still around us. There's no escape that I can see. And still those little things remain that bring me happiness or pain. A cigarette that bears a lipstick's traces, an airline ticket to romantic places. In realtà, cara mia, io voglio che tu dici qualcosa di Alberto. Sì, sì. Cos'è stata la cosa più importante che ti ha insegnato? Caspita, mi hai veramente preso così in diretta. Certo, siamo coccici noi. Ok, Alberto credo che mi abbia insegnato ad essere me stessa, senza nessun tipo di compromesso, di non nascondermi, mi ha insegnato la lealtà, mi ha insegnato l'onestà, l'integrità, mi ha insegnato la resistenza, e per me lui è una montagna. È proprio un punto di riferimento che non smetterà mai di essere tale, artisticamente, umanamente, a livello anche pedagogico, un caso incredibile. E quindi voglio veramente tanto bene a tutte le persone a cui gli hanno voluto bene, perché se era così speciale è stato anche grazie alla sua famiglia, ai suoi amici, ai suoi allievi, alle sue amicizie, per cui no, è anche bello ricordare tutte le persone che l'hanno accompagnato, secondo me, in questo. E quindi ora, per togliere un po' di pathos, sì, voglio smorzare dicendo un aneddoto, che adesso lavoro nella moda, no? Allora lui, quando vedeva in classe qualche allestimento, tutto allestimento e niente arrosto, diceva: vetrinista. E io adesso, che ho dei colleghi che ogni tanto fanno le vetrine, dentro di me penso: ma vetrinista, cosa stai facendo, no? E quindi niente, volevo smorzare così. Vetrinista. Abbiamo anche Paola Gaggiotti, che ci ha spedito un audio su Alberto Garutti. Ascoltiamo anche lei. Dedicato ad Alberto da Paola. Sai, dico sempre di essere stata la prima allieva di Garutti in ordine numerico. Ai tempi eri assistente a Brera della cattedra di De Valle, dal quale hai tratto una parte importante di metodologia. Io ero un outsider che arrivava dalla provincia con le Timberland tarocche e facevo una fatica bestiale. Non ne ho mai capite le ragioni, ma tu decidesti di diventare il mio punto di riferimento in accademia. Mi tenevi sempre con te a compilare registri, ma poi mi portavi al Giamaica a mangiare gratis con tutti i docenti e da dove tornavi sempre un po' brillo. In quegli anni ho cominciato a frequentare il tuo studio insieme a Carlo. Lui era pagato e io no. Dipingevo i vetri bianchi e neri e sistemavo l'archivio. Lavoravamo fino alle 4 del mattino e poi quando cominciavo ad addormentarmi sulla moquette ci portavi a bere birra dal Porchettaro. Quando sei tornato a Milano, dopo Macerata e Bologna, feci amicizia con i tuoi allievi di via Fiuggi, alcuni dei quali sono ancora miei amici. Ad oggi, Alberto, ancora mi chiedo perché mi avessi scelta, cosa ci trovavi in me, perché se la mia vita non ha influito sulla tua, a parte il grande affetto, il nostro incontro ha cambiato la mia vita. A te devo l'ostinazione, la determinazione e la grande libertà con cui sto nell'arte. Hai capito? E questo è il pezzo che Paola dedica ad Alberto. I've seen it all. I have seen the trees. I have seen the willow leaves dancing in the breeze. I've seen a man killed by his best friend and lives that were over before they were spent. I've seen what I was and I know what I'll be. I've seen it all. There is no more to see. Io devo dire che Alberto Garrutti per me è gli anni 90, no? Cioè, indica l'inizio degli anni 90, perché lui è arrivato, mi dici, nel 90. 90-91 Bologna. No? A Bologna, esatto. E io mi ricordo quando lui è arrivato. Correggetemi se ho sbagliato. Io ero da Pozzati nell'aula di fianco e arrivava questo nuovo docente che non faceva dipingere in aula, per cui per gli allievi di Pozzati era stranissimo, no? Perché noi eravamo tutti lì a dipingere fianco a fianco, invece Garrutti aveva l'aula tutta bianca e tu portavi il lavoro già fatto e si parlava e basta, capito? Per cui era una roba strana, che in effetti io, vabbè, in quel momento avevo il cuore a Bristol e dunque non ero interessato, volevo solo finire l'accademia per poi scappare in Inghilterra, però in effetti mi ricordo che c'era questo frizzantino tra i corridoi perché era arrivato questo Garrutti. Che bello. Dopodiché, come si dice, smorfiamo tutta questa onda emozionale per ricordare Alberto Garrutti con l'audio di Ettore Favini che ce lo saluta, che così. Non, che non smorza. Non smorza, non lo so, non l'ho sentito, me li hai mandati 10 minuti prima di cominciare la trasmissione. Sentiamo. Incontrai una volta Alberto dove ero in giuria per un premio. Ormai era passato qualche anno dalla mia uscita dall'Accademia. Eravamo in attesa dell'esito del premio. Lui mi si avvicinò e mi disse: Ettorone, vieni, andiamo al bar. Tanto non hai vinto, è inutile che stai qui a stressarti. Così mi prese sotto braccio, andammo a un bar vicino al luogo dove si teneva la premiazione e prendemmo una birretta in un baracchino. E lì mi diede un'ulteriore lezione. Nel senso che mi disse: non preoccuparti, i concorsi si vincono e si perdono senza problemi, l'importante è tenere la concentrazione sull'obiettivo. L'arte è come una battaglia di trincea, come la prima guerra mondiale, devi stare lì concentrato, resistere, poi a un certo punto la guerra finisce, tu esci dalla trincea e ti danno una medaglia, tutto qui. fantastico. Grazie mille, posso ringraziare anche personalmente, certo, assolutamente. Paola, Adriana, Roberto ed Ettore per questi contributi preziosissimi e anche per il tuo racconto in diretta, Stefano. E volevo dire che se qualcuno stesse ascoltando questa puntata e avesse studiato o non studiato con Alberto Garutti, e ci può scrivere, può scrivere a coxospaziale.blogspot.com, no, coxospaziale@gmail.com, vabbè, la vede tutto, certo. O Instagram, che io però non ho, quindi non ho idea. No, Instagram è neanche coxospaziale ha Instagram, ecco. Su Instagram comunque in qualche modo trova e si mette in contatto, perché tutti abbiamo condiviso una stessa cosa molto, molto importante, molto bella, per cui io saluto di cuore tutti. Grazie. E noi abbiamo qua ancora Giacomo che si chiederà ma chi è Alberto Garutti? No, infatti in realtà è stato molto interessante tutto questo. No, anche perché in effetti devo dire che i consigli di un maestro valgono per tutti. Assolutamente. Per tutti, ma anche secondo me, cioè io riflettevo, cioè io e Stefano siamo artisti contemporanei, tu sei un artista musicale, si può dire, no? Certo. Ma secondo me sarebbero valsi anche per un medico, per un ingegnere, per un cuoco, per qualsiasi altra persona, no? Cioè i maestri alla fine ti spingono ad essere veramente il meglio di te e a pretendere sempre di più, no? Di fare di più, sia per te stesso che per quello che stai facendo, no? E per gli altri. Quindi, sì. Quindi io amo pensare che se Alberto si fosse svegliato, avesse fatto il medico e avesse insegnato medicina, chissà che generazioni di medici sarebbero venuti fuori, no? Ah, chi lo sa. Questa è On Four Walls. Cosa ci racconti di questo pezzo? Che alla fine di questo pezzo è finita la trasmissione, per cui ahimè ci dobbiamo parlare sopra per forza. Che è un pezzo che mi è venuto in mente a Torino, proprio una galleria d'arte tra altre cose. Ah dai, sì. Si può sapere quale, visto che ho insegnato a Torino per 8 anni. Eravamo in una galleria che si trovava nei piani superiori del Lingotto. Ok. E la Pinacoteca Agnelli. No. Esattamente, sì, la Pinacoteca Agnelli. Ok. E questo è proprio il nome di un'opera. E adesso però mi sento tipo interrogato. No, scusa, non ti volevo interrogare. In realtà stavo cercando una scusa qualunque era il titolo di un quadro. È grande. No, la domanda reale era: hai qualcos'altro da raccontarci su di te in questi 3 minuti rimasti di trasmissione? Senza metterti ansia, naturalmente. Ma guarda, in realtà mi porto a casa queste testimonianze, questi racconti, questi pensieri delle persone che hanno partecipato nei riguardi appunto della persona di cui parlavamo. E devo dire che comunque sì, cioè, come dicevi tu, rientrano perfettamente nella percezione, diciamo, artistica che poi ciascuno di noi può avere. Quindi comunque è stato un momento molto intenso, molto bello. Sinceramente non mi va di mettervi in mezzo. Del resto. Però grazie comunque. No, grazie a te. È stato un vero piacere averti e mi raccomando, appunto, ti rivogliamo quando la seconda parte del disco starà per uscire o quando è appena uscita, insomma. Va bene, mi preparerò per l'occasione meglio sull'ispirazione di Off the Walls. Sacro Bosco. Sì. Ah, dimmi un po' come si intitola questo album, come si legge il titolo dell'album? Ce lo stavamo chiedendo, sì. Perché in numeri romani è illeggibile. È illeggibile, infatti. 456. C'è una persona che intervistandomi qualche tempo fa ha proposto 1-5-10-5-1. Ah, 1-5-10-5-1 ha senso, perché IVXVI suona un po' strano, poi magari mi sbaglio. Ah, ricordiamolo che è uscito con Trova Robato. Esatto. Mm-hmm. Basta, dopodiché. Quindi si pronuncia 1-5-10? Ma in realtà non dovrebbe, fatto, non dovrebbe pronunciarsi perché okay. Praticamente si ascolta. Sì. Mm. Sì. Grazie. Questo era Coxo Spaziale, io ero Mia da Schia su Piei. E io ero Stefano W. Pasquini. E lui era Sacro Bosco, detto anche Giacomo Giunchedi per i suoi amici. Grazie per essere stato qui con noi. Grazie a voi. E naturalmente noi ci promettiamo di esserci anche lunedì prossimo, poi non so, vedremo come vanno, come va la gradazione. Ok, allora se ci sei tu ci sono anch'io. Ci sentiamo di nuovo come al solito dalle 20 alle 21 su Radio Città Fujiko 103. Grazie per averci ascoltato e buona settimana. E buona settimana. Adesso alzo il guarda, sta per finire il pezzo del nastrone. E dunque quando finisce è finita anche la nostra trasmissione. Oggi siamo così. Quindi devo trovare qualcosa da dire? Devi trovare qualcosa da dire? No, ma no, possiamo anche ascoltare il pezzo finale del nastrone. Thing. This precious thing. This precious thing.